e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Bene, lo avevamo anticipato, Deborah, sì, già qualche puntata fa, che sì, nel 2016 c'è un solo venerdì 17 e tan, chi mi festeggia il suo compleanno oggi? Sfidando la sorte e ogni tipo di uccello di malaugurio. Tocca a me, infatti ringrazio già gli ascoltatori. Faccio un applausone di buon compleanno alla nostra Nicoletta. E per l'occasione? Il CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ha proclamato in tutta Italia la giornata antisuperstizione. Eccola lì. Allora, e quindi chi si sente temerario e vuole un po' sfidare, no, la sfortuna, può postare foto, filmati, insomma, in cui vengono sfidate delle superstizioni, l'hashtag o cancelletto sfida la iella e devo dire che anche i mercati la sfidano, sì, no? Adesso te lo racconto, aspetta un attimo però. Cos'è? Che carino! Non arriva? Ma che, Paolo, ma che canzone mi hai scelto? Stevie, il grande Stevie. Con Happy Birthday to You, ma l'intro è lunghissima, ci sta dicendo intanto Paolo. Così io ballo. Tu ballatela. Allora, io ti dico che sì, i mercati oggi sfidano la sorte, tutte le congetture fatte su Brexit. Detto questo, io i mercati te li racconto tra poco, però volevo leggerti prima un'altra notizia che invece arriva dalla Sardegna, guarda che viaggio che mi sono fatta. Dove ci sono dei centenari. Esatto, che parlavamo con di longevità, esatto, con il nostro super ospite. Allora, noi parliamo, oltre che di longevi, parliamo anche di maxi bollette molto spesso. Ne parleremo tra poco con un ospite nel nostro primo approfondimento di denari, ma a quanto pare esistono anche le mini bollette, mai viste in vita mia. Un'impiegata di Donori è rimasta basita quando ha aperto la busta di Abbanoa, gestore dell'energia sardo, e ha visto l'importo 1,08 euro per un conguaglio regolatore di una seconda casa che possiede in un altro paese, a Villa Salto. Non è l'unica segnalazione nella regione. Per pagare 1,08 euro bisogna però versare alle poste 1,50 euro. E quanto, chissà quanto è costato allora il gestore l'invio di questa bolletta così microscopica ad un sacco di gente, no? Allora, quello che io volevo dire in conclusione è che dopo i maxi conguagli non avremmo mai immaginato di doverci lamentare anche delle mini bollette. E con questa ce l'abbiamo adesso. Niente, non la lasciamo a beccare questo intro. Perché io festeggio, inizio a festeggiare oggi fino a domenica sera. Andiamo faccio con dei la... festeggiamenti. Brava. Lunghi. Andiamo con la rassegna stampa, va. Allora, la borsa oggi finalmente vediamo un segno più con forza, più 2,46% sul FTSE MIB a Piazza Affari, e guadagnano oltre un punto le altre piazze europee. Provano a recuperare i nuovi cali che si sono visti ieri, agitazione alle stelle per l'imminente referendum su Brexit e poi naturalmente anche tutto ciò che è stato scatenato dalla morte della deputata laburista Jo Cox. In tutto questo stamattina si è appreso che in caso di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, le banche centrali di Stati Uniti, Europa e Giappone cominceranno a discutere di un'iniezione di liquidità concertata in dollari, e quindi su questa iniziativa straordinaria già ipotizzata e messa in cantiere le borse oggi recuperano un po'. I migliori titoli sono tutti bancari, abbiamo rialzi fra i 6 e i 7 punti percentuali per la Pop Milano, Banco Popolare, Pop Emilia Romagna, UBI Banca, Anima Holding, Monte dei Paschi e Unicredit. In negativo solo un titolo è Campari, perde lo 0,12%. Dopo esserci occupati tante volte della vicenda della Popolare di Vicenza insieme a Veneto Banca, un pensiero speciale oggi non può che andare al pensionato di Vicenza, alla sua famiglia che si è tolto la vita nella sua abitazione appunto nel Vicentino. L'uomo aveva investito e perso i risparmi di una vita nelle azioni della Pop Vicenza, un patrimonio di 400.000 euro. Allora, noi vogliamo segnalare a questo proposito anche l'articolo di Repubblica di questa mattina, che ritorna su un'ispezione condotta nel 2015 dalla Banca Centrale Europea, su cui anche il Sole 24 Ore aveva scritto tantissime volte. Perché ci ritorniamo? Perché già più di un anno fa era noto come la Pop Vicenza avesse suggerito l'investimento a migliaia di risparmiatori in prodotti non adatti, nella fattispecie azioni della banca. Un'indagine condotta fra febbraio e luglio dell'anno scorso, che si è conclusa con una relazione di più di 100 pagine e che naturalmente dovrà essere anche esaminata attentamente da tutte le autorità preposte alla vigilanza per verificare se a questo punto, anche con questi presupposti, a tutte le persone che hanno perso tutto vada ridato indietro qualcosa. velocemente, possibili disagi per oggi per chi aveva in programma di volare dalle 13 alle 17. È stato indetto uno sciopero dei controllori di volo, saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente. L'Italia ha comunicato di aver attivato un piano per ridurre il più possibile i disagi ai viaggiatori. La compagnia peraltro sta prendendo contatto con i passeggeri interessati dalle modifiche dei voli, offrendo delle soluzioni alternative di viaggio, se possibile in giornata, per la stessa destinazione, ma invita in ogni caso i passeggeri in partenza a verificare lo stato del volo. Il nostro primo approfondimento di oggi, Nicoletta, quante volte abbiamo parlato di questo argomento? Cioè, uno sfinimento è diventato veramente. Però allora, per parlarne, è sempre attuale. Parliamo appunto di maxi bollette, maxi conguagli, conguagli sospetti. A quanto pare c'è proprio qualcosa che non va nel sistema delle forniture di energia, in particolare per quanto riguarda i pagamenti. Allora, arrivata negli ultimi giorni l'ennesima notizia pronta a farci riflettere. L'Antitrust, l'autorità garante del mercato, che proprio peraltro due giorni fa ha tenuto la sua relazione annuale a Roma, ha multato 5 big dell'energia con sanzioni per oltre 14 milioni di euro. Il motivo? Pratiche commerciali scorrette. Allora, non potevamo che chiedere chiarimenti e parlarne con Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, Centro per i diritti del cittadino. Gabriele, buongiorno, ben ritrovato, sempre sullo stesso argomento. Prima o poi la chiameremo anche per qualche cosa di diverso. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Nonostante li stiamo sfiancando, a quanto pare resistono, sono più tenaci di noi. Esatto. Ma non molleremo. Ma no, ma adesso mi verrebbe da ridere se dovrete andare ad occuparvi prossimamente anche delle mini bollette che arrivano che arrivano in Sardegna. Ha sentito la prima notizia di cui abbiamo parlato poco fa? Sì, ma a questo punto Poste Italiane ci dovrà dare un canale preferenziale, cioè chiediamo direttamente che venga effettuato il pagamento su Palmare dai postini, perché non possiamo pagare €1,58 per €1,08. Esatto, infatti. Senta, andiamo invece a questa super multa dell'Antitrust ai 5 big dell'energia con sanzioni per oltre 14 milioni di euro, che sono tantissimi soldi. Questi vengono sanzionati continuamente, ma con le loro pratiche commerciali scorrette vanno avanti. Poi scorrette, qualche società si è già difesa dicendo che in realtà è tutto nell'ordinaria amministrazione. Adesso spiegheremo anche appunto quale difesa hanno adottato alcuni operatori, ma appunto a proposito di operatori coinvolti, Gabriele, quali sono e per quali motivazioni è arrivata questa dura sanzione da parte dell'autorità garante del mercato? Allora, diciamo intanto che Duwinner is Enel, che con il suo gruppo diviso in mercato libero e mercato tutelato ha collezionato quasi 5 milioni e mezzo di multa. Ascea arriva al secondo posto, parimenti con Eni, ma non parimenti, perché ha certamente un numero di utenti inferiore rispetto all'Eni, tutte e due con 3.600.000 euro di multa. Ciò significa che Ascea ha calcato un po' più la mano. E in ultimo abbiamo Edison, diciamo queste sono le 5 stelle del mercato energetico italiano, poi le altre sono considerate tutte minori. Che cosa contesta esattamente l'Antitrust? L'Antitrust dice che hanno fatturato consumi ipotetici, consumi che non erano realmente stati né rilevati e di conseguenza nemmeno consumati dai consumatori. Allora, si stanno difendendo le società, che cosa dicono? Beh, intanto che ricorreranno al TAR e noi contro ricorreremo a fianco dell'Antitrust, già l'anticipo e lo anticipo attraverso la vostra radio. E, ovviamente, nonostante sembrano molti soldi, 14 milioni di euro in un bilancio energetico di 200 miliardi di euro, in un PIL energetico di 200 miliardi di euro l'anno, sono infinitesimali, ma ricorrono per motivi di natura strategica e politica energetica. Loro continuano a difendersi dicendo che fanno quello che la regolazione prevede. In effetti, in parte è così, ma questo perché l'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è il regolatore, cioè colui che fa le regole sul settore, ha fatto delle regole troppo morbide che l'Antitrust, che è il vigile, ha rilevato essere inadatte. Quindi in genere c'ha sempre ragione l'Antitrust, perché l'Antitrust vigila anche sulle regole che fanno gli altri regolatori. E quindi, senta, ma di fatto, quindi, da quello che lei mi dice, le aziende sono autorizzate a fatturare appunto importi presunti? No, le aziende si nascondono dietro il dito del tentativo, perché in Italia esiste un aggettivo strano, la regolazione rispetto agli altri settori dice che loro possono tentare una volta l'anno di leggere, se non lo fanno non succede niente. Però questo tentativo, siccome che è la scusa per emettere fatture stimate, e la stima in genere è sempre in eccesso rispetto a una stima in difetto che si potrebbe fare, va avanti per molti anni e va avanti soprattutto lì dove c'è la vergognosa esistenza e presenza del cosiddetto contatore teleletto, che ricordo ai consumatori italiani ci ha costato qualche miliardo di euro e da questo mese si inizierà a costare un altro 8 miliardi perché stanno per cambiare di nuovo questi contatori teleletti per una quota di circa 120 euro a famiglia che pagheranno sempre i consumatori finali, per ritrovarci sempre ad avere la scusa di dire no, ma il dato non era certo e quindi abbiamo stimato. Allora, detto questo, Gabriele, adesso devo salutarla, però intanto abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori a cui fosse sfuggita questa notizia, appunto l'abbiamo raccontata con qualche dettaglio in più, alla luce anche di questa super sanzione che poi viene contestata dalle aziende e quant'altro, ma di fatto ormai questa multa, questo stop da parte dell'antitrust alle società c'è. Se da qui in avanti arriveranno le ennesime super bollette, appunto, ai nostri ascoltatori, come potranno far valere le loro ragioni per prima di tutto contestarle, fare chiedere appunto una verifica se sono assolutamente certi di non aver fatto tutti quei consumi. So che per chi ha invece una super bolletta e i consumi li ha fatti può chiedere la rateizzazione eccetera, ma se qualcuno ha la certezza di non aver fatto questi consumi, tre passi veloci da fare con la compagnia. Non ci stancheremo mai di consigliare, leggete voi il vostro contatore, perché se leggete voi e comunicate il dato non sarete oggetti di conguaglio, perché loro comunque sono tenuti a dover acquisire l'autolettura da parte dei consumatori. Quindi uno, leggete questo sempre il contatore e trasmettete i dati. Sì. Se due, siete stati sbadati e non avete letto voi il contatore, non raffrontato quello che c'era nelle fatture, l'unico passaggio da fare è quello di contestare formalmente quella fattura, contestandola nelle modalità che sono riportate obbligatoriamente in bolletta. Dovete farlo in maniera scritta. Da lì poi, se non si risolve il caso, si possono percorrere diverse strade. Reclamo, diciamo, la prima cosa a regolare contro la compagnia. Se non risponde entro un tot di tempo, si può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori, andare alla conciliazione, temi che abbiamo affrontato tante volte che sicuramente ritroverete nelle nostre pagine Facebook. Grazie a Luigi Gabriele, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Allora, Deborah, prima di andare a sentire le informazioni sulle strade, aiutami a fare un bocca al lupo a Emanuela che ci scrive: sto per entrare in sala operatoria, intanto vi ascolto, mi dà coraggio, fatemi in bocca al lupo visto che è venerdì 17. Ma tu guarda che ci porta con sé fino addirittura a questo punto. Ottimo, grazie, andiamo. Cuore e denari. Sabato 18 alle ore 20:25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. E non so come e se guarderete la partita oggi pomeriggio e con chi, ma a poche ore dalla seconda partita dell'Italia, Deborah, bisogna tifare qua. Scatenati. Guarda, abbiamo incrociato tutto, toccato tutti i materiali delicati. Che è venerdì 17. Ci scrive un'ascoltatrice che è nata il 17 settembre e è sempre stata molto fortunata perché le difficoltà sono diventate opportunità. Noi vogliamo parlare di chi guarderà la partita a casa di amici. Questo lo dicono anche i dati. Un'indagine dice che l'83% dei tifosi europei preferisce guardare la propria squadra in casa e il 41% sceglie di andare a casa di amici. Ma noi vogliamo occuparci anche di chi quegli amici li accoglie e li serve. Ecco. Perché intanto che gli amici sono spaparanzati davanti al divano, c'è qualcuno, e io li conosco da vicino, che corre dalla cucina al salotto con piattini vari. Esatto. Allora io ho pensato, perché non ci facciamo dare una mano? La sguattera del Guatemala. Brava, la sguattera del Guatemala. E poi ti dicono, hai visto? No, non ho visto, ero di là. Allora io ho chiesto ad un amico di darci una mano, è Andrea Ribaldone, chef stellato dei Due Buoi di Alessandria. Ciao Andrea. Ciao ragazze, buongiorno a tutti. Allora, oggi l'Italia gioca alle 3, quindi una merendina veloce veloce, anche senza merenda, dai, perché gli spuntini non so se a lungo piacciono molto. Guarda, il frittatone di cipolle funziona sempre bene, perché no? Però oggi la proposta potrebbe il rutto libero un po' meno, ma insomma ci sta. Frittatone di cipolle, birra ghiacciata è sempre una bella cosa. Però, a mio parere, vediamo questo scambio Svezia-Italia. E quindi proporrei due bruschette, una con salmone, quello lo trovate già pronto, o se volete prenderlo fresco, anche appena sfilettato potrebbe andare bene, e fate una crema con, mettete, siamo in Francia, quindi facciamo una crema che è anche la panna, quindi uniamo le tre nazioni, diciamo. Sì. Quindi latte, un goccino di panna, e poi spremete un limone, un lime o anche un'arancia, quello che avete in casa, ne grattate anche la buccia, la mettete sempre dentro questa salsa. Vedrete che caglia, quindi si tira e fa questa panna acida. Fa questo, non è proprio la panna acida, però assomiglierà e sarà anche facile da fare a casa. La mettete sul crostino, le fettine di salmone, un pochino di erba cipollina. Dall'altra parte invece un po' più italiano, ma al tempo stesso anche innovativo, facciamo una dadolata di pomodoro, a cui mettiamo, adesso è stagione, quindi nel frigo avremo pesche, albicocche, mettiamo sempre anche un po' di pesche di albicocche indadolate insieme al pomodoro. Dai. Vedrete che acidità e dolcezza funzioneranno bene. Mi un piace quando Andrea dice acidità e dolcezza, mi piace la molto. Dadolata. Sempre sulla bruschetta con un goccio d'olio, sale e una foglia di menta. Lo servite per il pomeriggio, è perfetto. Se avete voglia di una birra va bene, ma anche una bibita analcolica come potrebbe essere un bottè freddo è veramente bello. Senti Andre, invece mercoledì l'Italia torna a giocare alle 21 e quindi si dovrà pensare a una cena, e quindi toccherà prepararla a qualcuno. Va bene. Però una cosa molto rapida, perché poi uno, l'amico porta l'amico e intanto ci sono queste, per cui sai, poi c'è l'effetto moltiplicatore, tu ne aspetti 5, poi con piacere ne arrivano 11. Ma ecco, che cosa si può fare di una ricetta che è veloce, facile, non troppo costosa? A mio parere una zuppa, facciamo una zuppa anche di pomodoro, tipo un gazpacho, pomodoro, cetriolo, se vogliamo un po' di peperone, anche cipolla rossa sarebbe ottimo. Facciamo questa zuppa fredda, questo gazpacho freddo, molto liquido, e facciamo prima dei tagliolini o degli spaghettini, li cuociamo prima, li mettiamo subito a raffreddare in acqua fredda e ghiaccio, se lo avete, se fate, quindi lo potete fare anche molto prima, anche la mattina prima di andare via dall'ufficio, se poi tornate all'ultimo tanto va bene. Tocca a voi, certo. Esatto, poi dopo li togliamo dall'acqua e ghiaccio, li condiamo con un goccio d'olio e li serviamo all'interno di questo gazpacho. Vedete che è veramente un piatto semplicissimo e che piace a tutti. Allora Andrea, grazie. Intanto poi noi metteremo naturalmente le ricette di Andrea Ribaldone sulle pagine di Cuore Denari, così le fa anche Deborah. Sì, certamente. Perché... allora oggi pomeriggio non posso fare la frittatona di cipolle perché sarò in auto, perché devo andare in Toscana. Però magari mercoledì prossimo qualche la zuppa di pomodoro, la dadolata, mi piace un sacco. Con mi piace albicocche, pesche. E pomodori. Grazie Andrea. Ciao, grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, grazie ancora per gli auguri che continuano. Sono arrivate anche delle rose rosse. Sì, sì, ti vogliono un sacco di bene i nostri ascoltatori, come potrebbe essere diversamente. Allora, noi andiamo a sentire il giornale radio e poi torniamo con RC Auto, invece per quello che riguarda il cuore. Parleremo di rossore, si arrossisce non solo per la timidezza. A tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Iacovo. Notte prima degli esami, notte di aritmia. Tre ore in in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Maturità. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.net. Cuore e denari. Allora, l'auto è sempre in cima ai nostri pensieri, non abbiamo solo questo, ne abbiamo tanti di denari, ma insomma sull'auto torniamo spesso e ci torniamo anche oggi, torniamo sul tema delle assicurazioni esattamente, perché le notizie che leggiamo ogni giorno continuano un po' a confonderci le idee, se vogliamo. Allora, sappiamo che da qualche tempo i premi sono complessivamente in riduzione con grande beneficio per le tasche dei consumatori, lo rilevano molte indagini e sono soprattutto quelle dell'ANIA, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, appunto a rilevarlo costantemente anche con discreta soddisfazione. Però due giorni fa invece l'IVASS, l'Istituto di Controllo del Settore Assicurativo Italiano, nella giornata in cui il suo presidente Salvatore Rossi ha presentato la relazione annuale, ha parlato invece di un caso Italia nel settore RC auto, di un mercato dove le frodi sono ancora altissime, dove gli italiani, dove gli assicurati pagano premi ancora molto più alti della media europea, anche se rispetto ai picchi degli anni precedenti, di qualche anno fa, questo divario si va riducendo, eppure ancora c'è. Quanto basta per organizzare un approfondimento alla Cuore e Denari con Umberto Guidoni, responsabile servizio auto di ANIA, che ringraziamo per essere con noi. Buongiorno, dottor Guidoni, ben ritrovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ci aveva già fatto compagnia in occasione delle spiegazioni che abbiamo dato ai nostri ascoltatori qualche mese fa sulla dematerializzazione del contrassegno assicurativo, per cui è tornato. Me lo ricordo, ecco. Vedi che ritornano. Esatto, e ritorna anche Fabrizio Premuti, fondatore e presidente di Consumer, un'associazione dei consumatori che è molto attiva in questo campo, oltre che in tanti altri, ma Premuti sicuramente nel mondo del consumerismo è universalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti di auto. Premuti, le ho fatto un il biglietto da visita mamma stamattina. Troppo buoni, buongiorno a tutti. Buongiorno. Consumer, peraltro, lo segnalo agli ascoltatori che volessero saperne qualcosa di più, con la K davanti, per cui se cercate questa associazione dei consumatori è Consumer con la K. E intanto, naturalmente, agli ascoltatori rivolgo il consueto invito a chiamarci se vogliono dirci la loro su quanto pagano di RC auto ogni anno e se da qualche anno riscontrano, essendo magari dei conducenti virtuosi, un risparmio, una riduzione del premio praticato dalla propria compagnia. Potete chiamarci come sempre all'800 24 00 24. Dottor Guidoni, allora, da un lato l'IVASS riconosce all'industria gli sforzi fatti per la riduzione delle tariffe, ma al contempo lamenta la persistenza del divario europeo che, lo segnalo, ammonta ad oggi a 150 euro. Nel 2011 era più di 230, per cui questa riduzione del divario c'è stata, però persiste ancora. Che cosa lo dobbiamo attribuire? Perché non si azzera del tutto, è sempre colpa delle frodi che in Italia sono ancora tanto diffuse? Ma guardi, a me piace innanzitutto evidenziare il fatto che il presidente dell'IVASS ha riconosciuto un impegno da parte del settore che è riuscito negli ultimi anni ad abbassare notevolmente il premio medio di circa il 20%, insomma, che significa che se vengono introdotte delle normative, vengono introdotti degli interventi solidi, questo porta ad un ridimensionamento dei costi di risarcimento e conseguentemente ad un risparmio significativo per gli assicurati. Questo aspetto è stato rilevato anche dal presidente dell'IVASS, che ha detto che questo divario permane anche perché il DDL concorrenza, di cui si discute da circa ormai un anno, credo, non ha ancora concluso l'iter all'interno del Parlamento, e in quel provvedimento c'erano delle misure che andavano proprio nella direzione di abbattere quel divario, fra cui la scatola nera, a cui arriveremo tra poco, tra l'altro, giusto? Esattamente, ma c'erano soprattutto interventi antifrode, e questi aspetti purtroppo continuano a permanere, così come continua a permanere il divario delle aliquote fiscali rispetto agli altri paesi. Noi paghiamo circa il 26% di tasse sul premio assicurativo, diversamente composte, ma comunque questo rappresenta un elemento non comparabile rispetto agli altri paesi. E come non è comparabile il fatto del costo che noi andiamo a pagare soprattutto per gli incidenti che prevedono delle lesioni, delle lesioni danni gravi. Biologici gravi, sì. Esatto, e quindi questo è un divario che continua a permanere anche nei costi, chiaramente, rispetto agli altri paesi. E diciamo queste due componenti, cioè la componente fiscale e il divario sui costi, fanno sì che su quei 100 euro di cui stiamo parlando, circa 90 siano attribuibili, sui 150 circa 90 siano attribuibili a questi fattori. Sul resto chiaramente ci possono essere degli elementi di aggiustamento, ci possono essere degli aspetti di scontistica e via dicendo, che ci consentirebbero sicuramente di raggiungere i livelli di altri certo. paesi. Noi siamo l'unico paese che in Europa negli ultimi anni sta facendo registrare un calo costante e continuo del premio. Nessun altro paese sta facendo quello che sta accadendo in Italia. Allora, sulla fiscalità, come consumatori, come conducenti anche massimamente virtuosi, possiamo far poco. Anche sul tema della tabella degli indennizzi per i danni biologici, ovviamente è il sistema che deve attrezzarsi rimodulandola, magari su questo tema poi sentiremo Premuti, però sul tema del combattere le frodi, qualche cosa anche come consumatori in via individuale possiamo farlo, per esempio assicurandoci tutti e quindi magari denunciare anche chi sappiamo che per fare lo splendido magari addirittura circola con un'auto non assicurata. Sono ancora 4 milioni in auto le auto in Italia che viaggiano senza assicurazione, dottor Guidoni? O sono sì, un po' meno? Circa... No, sono l'ultimo dato che noi abbiamo rilevato è di circa 4 milioni. Adesso stiamo provvedendo a rifare la stima, per cui il dato io ancora non ce l'ho, ma lei che considera, insomma, se vogliamo considerare un premio di 350 euro in media, significa 1,4 miliardi in meno di premi che non vengono pagati da parte di questi soggetti e quindi le paghiamo noi che vengono spalmati su chi si assicura. La dematerializzazione del contrassegno assicurativo e dell'attestato di rischio, avendo come obiettivo quello di combattere l'attività fraudolenta, potrebbero nel medio termine secondo lei portare ulteriori riduzioni dei premi, oppure il mercato ha raggiunto dei livelli di rigidità che ormai sono difficilmente comprimibili? Guardi, la dematerializzazione, oltre ad essere stato uno strumento attraverso il quale noi abbiamo voluto semplificare la vita ai nostri assicurati, è uno strumento che va proprio in questa direzione, cioè c'è il tentativo di recuperare l'evasione assicurativa che chiaramente, oltre ad essere un problema in termini di minori premi e conseguentemente anche di una possibilità di premi più alti per gli altri, è anche un problema dal punto di vista della sicurezza dei soggetti, perché spesso i non assicurati fanno incidenti, scappano e chi subisce un incidente a un non assicurato deve rivolgersi al fondo vittime della strada, che gestito paghiamo dalla tutti Consap, nell'ambito sì. del premio, che noi paghiamo nell'ambito del premio, perché una quota parte del premio assicurativo va direttamente a finanziare il fondo vittime della strada. Chiaramente tanto più non assicurati ci sono, tanto più il fondo, si fa ricorso al fondo vittime, tanto più è necessario avere una quota di premio che va a coprirlo. Quindi è chiaro che anche da questo punto di vista è possibile avere una riduzione del premio, cioè avere persone assicurate significa garantire chi subisce un incidente, ma anche avere un minore appesantimento sul fondo vittime. Certo, visto che nel sistema assicurativo vale il principio mutualistico, appunto chi non fa deve essere compensato da chi fa, per chi non paga praticamente c'è qualcun altro che deve pagare. Allora, Fabrizio Premuti, cosa dicono su tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento le incontentabili associazioni dei consumatori? Allora, l'industria qualche sforzo l'ha fatta, manca il provvedimento sulla concorrenza che dovrebbe aggiungere qualche tassello appunto per rendere ancora più competitivo il sistema. Adesso sulla scatola nera arriveremo. Peraltro volevo anche ricordare che una settimana fa nella nostra trasferta a Torino al Salone dell'Auto ne abbiamo parlato con un'associazione dei consumatori del posto e alcuni ascoltatori ci hanno raccontato che accettando di installarla riescono a risparmiare addirittura fino a 500 euro l'anno di premio. Aspetta. Premuti, allora da cosa vuole partire? Io partirei, stranamente voglio partire proprio come il dottor Guidoni, nel senso che anch'io voglio ringraziare Rossi dell'IVAS che ha finalmente messo l'accento su queste differenze che rileviamo tra noi e l'Europa. Il punto è che se abbiamo un costante calo delle tariffe è dovuto alla responsabilità degli italiani che sono stati molto più attenti nella guida, hanno causato molti meno incidenti, abbiamo avuto anche fortunatamente molti meno morti e molti meno feriti. Questo ha consentito alle compagnie di assicurazione di potersi stabilizzare con attivi di tutto rispetto nei propri bilanci, il che mi avrebbe sorpreso se non ci fosse stato un calo progressivo delle tariffe. Il punto è che purtroppo, soprattutto rispetto a quella che è la frequenza dei sinistri, oggi stiamo ricominciando a salire purtroppo. Negli ultimi tempi si rilevano alcune punte d'aumento del numero degli incidenti. Questo io spero che venga responsabilmente valutato dalle imprese rispetto a quelli che sono stati gli attivi di questi anni e non si ricorra subito alla leva tariffaria ricominciando a fare aumenti. Poi voglio dire, sulla differenza tra noi e l'Europa, il dato che mi stupisce non è tanto quello dei 150 euro che è stato dato, ma quanto quello che in alcuni punti del nostro paese si sia più o meno ci si sia allineati all'Europa. In altri punti del nostro paese il divario è di oltre 300 euro. Allora, la realtà è che noi continuiamo ad avere una forte sperequazione tra territori dello stesso paese, questo dovuto chiaramente al rischio che comportano quei territori. Esatto, infatti. Ma questo è dovuto anche a delle possibilità che noi avremmo di intervento che fino ad oggi, non certo per colpa delle imprese, questo va detto, sì, ma per colpa del legislatore, non siamo riusciti a portare a casa e, come accennava giustamente prima Umberto Guidoni, stiamo ancora aspettando che si risolva il problema della legge concorrenza laddove. Ma mi faccio un esempio, Premuti. Allora, se rileviamo, per esempio, che a Napoli ci sono, non lo so, adesso io dico una cifra a caso solo per fare un esempio, qualche migliaio di auto senza assicurazione, appunto, come potrebbe fare la legge ad intervenire su quel territorio? Cioè deve andare a monitorare auto per auto che non ha l'assicurazione, che quell'automobilista non è dotato appunto di assicurazione. Perché lei dice lì che deve intervenire la legge per risolvere quel problema? Ma deve intervenire la legge, perché prima parlavamo della scatola nera. La scatola nera è un sistema di geolocalizzazione ma anche di rilevazione, no? Tra l'altro la scatola nera collegata alla targa ci consente di sapere rispetto a quella targa tutto ciò che è accaduto a quel veicolo, compreso il fatto che sia o non sia assicurato. Allora è chiaro che se questa legge che parla di scatola nera, oggi la scatola nera la sta declassificando sempre di più, in contrasto a quello che verrebbe invece dall'Europa, che ci obbligherà tra poco a montare sulle auto nuove tutte. Ecco, il problema che riguarda il nuovo, ma per il parco auto circolante, già a Napoli come nelle città dove il fenomeno dell'attività fraudolenta è altissimo e le auto sono anche discretamente vecchie, perché quello che circola lo sappiamo bene, come rendiamo obbligatoria l'installazione? Benissimo, se il legislatore lo volesse, lo potrebbe fare con pochissime parole in un articolo di legge e della stessa legge concorrenza, su cui stanno facendo, a mio avviso, esattamente il contrario. Basterebbe mettere che a ogni passaggio di proprietà, e voi sapete benissimo che in Italia passano di mano le auto usate per oltre 1,5 milioni, 2 milioni all'anno, l'obbligatorietà al passaggio di proprietà dell'installazione dell'eCall e quindi di conseguenza della scatola nera. Allora, il problema noi lo risolveremo in pochissimo tempo, proprio perché parlavamo di Napoli. Io qualche tempo fa mi sono esercitato in un esercizio molto semplice. Davanti alla stazione dei treni di Napoli c'è una piazzetta dove staziona sempre una camionetta dei carabinieri e in questa piazzetta c'è un parcheggio autorizzato. Ebbene, su 16 macchine parcheggiate, assicurate ce n'erano, assicurate visibilmente. È andato a controllare tutti i tagliandi? Sì, mi sono controllato tutti i tagliandi perché c'era ancora l'obbligo dell'esposizione del tagliando. Sì. E ce n'erano soltanto 3 in regola su 16. Incredibile. Con tanto e lei dice che carabinieri stavano là. Allora, abbiate pazienza, la vogliamo risolvere la questione? La questione la risolviamo quando la normativa e quindi il legislatore vorrà veramente cambiare le cose, perché altrimenti io sono propenso a credere che al legislatore di tutto questo non ne freghi proprio nulla, ma lo utilizzi essenzialmente per fare campagna elettorale quando è il momento. Se il principio di legalità non lo trasmette direttamente il legislatore, chi lo deve fare d'altronde? Molti nostri ascoltatori suggeriscono che per far pagare l'assicurazione a tutti basterebbe mettere l'assicurazione sulla patente. Esatto, altro tema del e quale non discutiamo sulla targa, da tanto. Perché chi guida che provoca ai sinistri e non la macchina da sola, che ecco, non il maggiorino impazzito. È possibile, deve. Sarebbe un grande errore, e spiego anche il perché sarebbe un grande errore, perché in una casa dove c'è una famiglia con pochi mezzi economici probabilmente troveremo 4 presenti e una sola macchina. In una casa dove invece c'è agiatezza forse troviamo 10 macchine e una patente sola. noi in questa maniera qua interverremmo in maniera sbagliata su un problema di carattere sociale, cioè sulla capacità di spesa delle famiglie. E insomma, quindi cominciamo intanto ad assicurare quantomeno tutte le auto che sono in circolazione. Questi sono ancora i problemi aperti per i consumatori. Sentirei una testimonianza per poi salutare sia Guidoni che Premuti. Giovanni da Brescia, buongiorno. Altro che risparmio, a lei è lievitato il premio dell'auto. Sì, infatti. Cos'è successo? No, ma in realtà non è lievitato. Io volevo semplicemente cambiare compagnia. Ah. Cambiate compagnia che probabilmente fanno delle offerte. Io ho la patente da 75, sì. E praticamente sono in prima classe da una vita. Ho provato a cambiare compagnia, mi è arrivato l'importo di 900, adesso attualmente ne pago 300, 900 euro. Vabbè, proprio, non vedevano l'ora che andasse da loro, Giovanni. Non vedevano, infatti non ci sono andato. Ecco. Ma secondo me questo... È perché sono nato all'estero, io ho avuto la sventura o la fortuna addirittura di una discriminazione di questo tipo. Giovanni, sì, aspetti lì. Me, sì, dottor Guidoni, è possibile? Ania. Guardi, noi teniamo conto della frequenza degli assicurati anche in funzione dell'origine degli assicurati stessi. Ma questo non significa... Noi per esempio abbiamo delle comunità che agiscono in Italia e che sono numerose che hanno una frequenza che è tripla rispetto alla media nazionale, ma questo vale per voglio dire, coloro che abitano in alcune aree del paese pur essendo italiani alla stessa maniera, insomma, quindi tendenzialmente io non credo che questo sia stato l'elemento. Ci sono delle politiche delle compagnie che possono essere disparate, queste politiche disparate rappresentano appunto una competizione di mercato che esatto, può insomma... portare anche alla volontà da parte di alcune imprese di avere nel proprio portafoglio alcune caratteristiche di assicurate e quindi fanno delle offerte che magari Giovanni, esatto, potrebbe fare un'altra prova, chiedere ad un'ulteriore altra compagnia per verificare se si comporta nello stesso modo e poi magari questa sì che sarebbe una bella notizia da approfondire. Allora, noi abbiamo terminato questa parte. Riccardo da Como voleva raccontarci che pure aveva avuto un aumento del 15%, quindi non tutti sono esattamente d'accordo sulla questione della riduzione graduale dei premi annuali, altri invece ci dicono che effettivamente da qualche tempo stanno risparmiando, altri ancora che sollevano una questione della scatola nera, non mai per la mia privacy, che cosa avranno fatto mai con quelle auto che non vogliono che la scatola nera registri. Però ci sono anche ancora tanti ascoltatori che ci scrivono per proporci il loro modo per far pagare l'assicurazione, ad esempio alcuni dicono mettiamolo in bolletta elettrica. Ecco, sì, certo, là. Insieme al canone Rai, dopodiché siamo a posto. Comunque, sai quante puntate faremo? Un noi? Brainstorming, esatto. Giusto? Grazie ad Umberto Guidoni, Fabrizio Premuti, avremo modo di rimettere di nuovo insieme questo duetto molto vivace che ci è piaciuto molto stamattina. Il tema è caldissimo tra gli ascoltatori, ci arroventa, ci fa diventare rossi anche un po' di rabbia. Nicoletta, brava, eccola, l'assist. A tra poco. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Cuore e Denari. Non arrossi quando ti guardo, ma ferma il tuo cuore che trema per me. Me la volevo sentire questa canzone cantata da Petra Magoni, Non arrossire, una canzone di Giorgio Gaber, te la ricordi, Deborah? Sì, anche se devo dire che non la conosco benissimo, la discografia di Giorgio Gaber. È bellissima, allora ce l'ascoltavamo perché ci introduce al tema della seconda parte di Cuore Denari, parliamo di rossore. Non sempre a farci arrossire la timidezza. Il rossore può avere tante cause diverse, l'importante è non trascurarlo, e oggi ci aiuterà a leggere il rossore, che ha una sua geografia, perché c'è chi arrossisce sulle guance, chi sul collo, sul décolleté, sulle orecchie, poi c'è anche il rossore a chiazze modello Pimpa. Ci aiuterà a leggere questo sintomo, questo SOS che la nostra pelle lancia, un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo ospedaliero San Donato. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei oggi ci aiuterà a individuare la causa del nostro rossore e soprattutto ci darà istruzioni su come spegnerlo, ma Professor Di Pietro, timidezza a parte, il rossore è un sintomo comune a molti disturbi della pelle che, pur provocando disagio e imbarazzo, spesso viene un po' trascurato e sottovalutato perché viene considerato un problema meramente estetico. In realtà il rossore è sempre un allarme che la pelle lancia per segnalarci un problema, che può essere anche un problema banale oppure un problema più severo. Insomma, vorrei paragonarlo un po' a quella spia rossa che si accende sul quadro, che io impropriamente chiamo cruscotto. Professor Di Pietro, ci aiuti un po' a inquadrare il problema. Perché la nostra pelle diventa rossa? La nostra pelle diventa rossa perché si indebolisce una parte molto importante della nostra pelle, che è il sistema vascolare, dei vasi sanguigni, in particolare sì. I capillari, che perdono elasticità col tempo anche per problemi di carattere interno e dilatandosi arriva più sangue nella pelle, quindi la pelle appare più rossa e comincia anche a scottare, no? C'è quel senso di cuociore, come si dice, appoggiando la mano si sente che la pelle è più calda. Sì, calda. Ecco, e il rossore indica quindi sempre che c'è una sofferenza del microcircolo, dei vasi sanguigni. Questo è importantissimo perché il sangue nutre le cellule della nostra pelle, porta l'ossigeno. Quando si verificano questi arrossamenti c'è un rallentamento della circolazione perché il sangue ristagna nella pelle, le cellule soffrono e quindi questo può innescare, dare il via a delle vere e proprie patologie molto frequenti. Perché il rossore trascurato può darci dei problemi. Allora invitiamo i nostri ascoltatori all'800 24 00 24 a raccontarci se e quando e come la pelle si arrossa. Professor Di Pietro, si può fare prevenzione? Cosa si può fare, insomma, per proteggere e anche per irrobustire la nostra pelle? Ci sono delle attenzioni, delle precauzioni? La prima regola è quella di evitare un'eccessiva esposizione al sole, un'eccessiva esposizione al calore anche, con degli sbalzi di temperatura. In questa stagione restare anche sotto l'ombrellone, ad esempio, non esporsi direttamente ai raggi solari, ma il calore può essere dannoso, perché dilata i vasi sanguigni e quindi questo porta al rossore. Infatti non a caso in queste settimane, in questi mesi estivi, l'eritema solare, che è la causa più comune e più frequente di arrossamento, tra virgolette, patologico della nostra pelle, è frequentissimo. Quindi, prima regola, tenere la pelle sempre fresca. A volte può essere sufficiente uno spruzzino. Quando andremo al mare, ci esporremo al sole anche adeguatamente protetti dalla crema, bisogna rinfrescare comunque il viso e il corpo per non farlo surriscaldare, perché sennò i nostri capillari friggono, termine. Basta abbassare di poco la temperatura locale sulla pelle per far sì che arrivi meno sangue, cioè che i vasi capillari restino chiusi. Ma anche l'alimentazione può essere importante e bisogna bisogna dare un grande spazio ai frutti di bosco, ad esempio. Ah, questa è finalmente la loro stagione, perché se ne parla tutto l'anno, ma noi promuoviamo il consumo degli alimenti di stagione, perché siamo a cuore denari, ricchi, no? nella loro stagione hanno tutte le proprietà nutritive e soprattutto hanno un prezzo accessibile, quindi frutti di bosco. Frutti di bosco perché sono ricchi di flavonoidi e non a caso in questa stagione che c'è tanta frutta colorata, veramente diventa un toccasana. Perché i carotenoidi, carotene che c'è, protegge, crea uno scudo in più sulla nostra pelle che protegge i nostri vasi sanguigni e quindi previene il rossore. Andrea Ribaldone, prima nella nostra prima parte della trasmissione, che è uno chef, professor Di Pietro, ci ha consigliato una bruschetta fatta con una dadolata di pomodori, a cui aggiungere anche albicocche e pesche, quindi è veramente una bruschetta che è promossa, anche il bollino blu del professor Di Pietro, perché è una bruschetta salvapelle. Ecco, bruschetta antirossore, quindi va bene. Roberto da Modena, Deborah, via cosa WhatsApp, scrivimi un messaggio che ci siamo dimenticati il rossore del conto in banca. come il suo. Anche per la pelle, quello, dannosissimo. O quello delle, che abbiamo visto in questi giorni in borsa, che era bello profondo anche, accentuato. Professore, comunque sì, la pelle arrossata è una pelle che va trattata con delicatezza, certo, a partire dalla detersione. Certo. Ci vuole dare qualche consiglio sui prodotti da utilizzare? Pericolosi o dannosi i detergenti, i saponi che fanno tanta schiuma, no? Noi diciamo bisogna utilizzare dei detergenti delicati. Delicati vuol dire evitare che facciano tanta schiuma, perché la schiuma sgrassa troppo, toglie quel film lipidico che è un'ulteriore protezione e quindi la pelle diventa più sensibile, si screpola, si irrita con più facilità e si difende male dal calore e dagli agenti esterni. Quindi detergenti delicati che facciano poca schiuma. Delicato vuol dire poca schiuma. Gli oli detergenti, ad esempio, sono ottimi. Attenzione anche a non usare, adesso che fa caldo, creme molto ricche, troppo occlusive. Quindi devono essere sempre piuttosto leggere, più idratanti, no? Che, tra virgolette, nutrienti, perché basta eliminare quel senso di secchezza cutaneo perché sia già sufficiente. Come ho detto prima, gli sbalzi e l'eccesso di calore, il contatto con fibre sintetiche che tende ad indebolire la cute perché la, ancora una volta, la surriscalda. E poi soprattutto ricordiamo di asciugare bene la pelle. Professor Di Pietro, questo è un consiglio che lei dà spesso e che io seguo, anche se ogni tanto avrei premura e mi ricordo il professor Di Pietro che dice: mi raccomando, asciugatela bene, soprattutto in questo periodo, certo, poi si iniziano a frequentare le piscine, esatto, si fanno docce più frequenti, tamponiamola e asciughiamola adeguatamente. Certo, con delicatezza. E poi, restando in tema di rimedi molto naturali, molto pratici, il rimedio naturale per eccellenza in caso di rossore è fare degli impacchi con l'amido, no? Con acqua e amido. Si faceva il bagno con l'amido ai bambini piccoli. Certo, ma se non abbiamo l'amido a portata di mano, un consiglio che io do spesso è quello di utilizzare semplicemente il pane che abbiamo in casa, quindi il pane messo un po' a mollo, avvolto in un canovaccio, in un fazzoletto, appoggiandolo poi sulla parte arrossata, è un ottimo antirossore. È un ottimo rimedio naturale per eliminare il rossore. In caso di eritema solare, direi che questo dovrebbe essere un po' il primo rimedio, al primo posto. Allora, possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori: come gestiscono il rossore? Che cosa fanno quando la pelle si arrossa? C'è chi aspetta, c'è chi invece viene preso un po' dall'affanno, inizia a mettere creme e cremine, chi usa la patata, chi usa il pane, chi usa il ghiaccio. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per porre le vostre domande al professor Di Pietro, e oggi vi daremo anche delle buone notizie perché il rossore si può spegnere, si può attenuare, ci sono delle nuove terapie oggi a disposizione, no? Il primo messaggio però che oggi vogliamo mandare è che è importante non sottovalutare i segnali che ci invia la nostra pelle, e quindi vogliamo interpretare il rossore e darvi delle indicazioni. Abbiamo detto che ha una sua geografia, professor Di Pietro, sicuramente anche la sede in cui si presenta il rossore può dare indizi importanti. Certo, ma prima dicevamo che è importante in generale, la cosa più più importante forse, che riguarda tutti, al di là delle patologie, è che una pelle che continua a essere troppo rossa ci fa invecchiare anche prima, perché quando questo sangue ristagna arriva meno ossigeno alle cellule, le cellule producono meno collagene, meno elastina e si invecchia prima. Quindi un viso che tende ad arrossarsi con facilità e a persistere questo rossore, purtroppo è un viso a rischio per un invecchiamento più veloce e precoce. Ma ci sono anche delle vere e proprie patologie, come ad esempio la rosacea. La rosacea, che è un arrossamento persistente sulle guance, colpisce soprattutto le parti laterali delle guance, e pian piano poi conquista la fronte, il mento, fino a spingersi sul collo. La rosacea è una patologia molto frequente, va curata, e attualmente ci sono delle cure efficaci, come ad esempio... Perfetto, aspetti lì. Le teniamo un po' in sospeso perché ci sono delle cure molto efficaci, ci sono anche tanti ascoltatori che ci chiedono un rimedio per la rosacea, alcuni ci scrivono non c'è nulla da fare, è vero, ma ci parlano anche della dermatite, anche la dermatite ha come sintomo il rossore e parleremo anche di acne, ci sono delle novità, a tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia. Ultima parte di Cuore e denari, parliamo di rossore, un sintomo dalle tante facce, dalle tante cause, la pelle si lamenta, segnala il suo disagio tingendosi per l'appunto di rosso. Questo è un modo molto chiaro attraverso cui la pelle ci racconta la sua fragilità, una situazione che non necessariamente è grave ma richiede un'attenzione in più. Per questo se il rossore persiste, come si dice, non passa dopo alcune settimane, se si accompagna anche ad altri sintomi, bruciore, prurito e fastidio, oppure se si associa alla comparsa di pustoline, desquamazioni o altro, meglio non aspettare e farsi aiutare da un dermatologo, perché un trattamento sbagliato potrebbe peggiorare la situazione e inquinare, per così dire, le prove, rendendo più difficile la diagnosi, per cui la pelle va trattata con attenzione. Professor Di Pietro, è corretto? Certo, infatti come prima accennavamo, il rossore può essere il punto di partenza per delle patologie anche molto frequenti. Quando si parlava di pustoline, questo è caratteristico della rosacea, che è un arrossamento diffuso con queste piccole pustole che guadagnano sempre più terreno sul nostro viso. E si è visto che queste pustolette sono causate da una eccessiva crescita di un piccolo acaro che vive normalmente sulla nostra pelle, ma quando la pelle si surriscalda perché c'è più sangue che continua a stazionare all'interno del nostro derma, diventa il terreno questo ideale. Acaro comincia a crescere a dismisura, infetta le ghiandoline del sebo e allora si crea la rosacea. E per combattere questo acaro attualmente viene utilizzato un nuovo antiacaro che è l'ivermectina. La ivermectina sotto forma di crema, questo principio attivo si è visto essere molto efficace nei casi di rosacea, per cui abbiamo adesso un'arma in più per combattere questa forma che è estremamente diffusa, interessa 7-8 milioni di persone, quindi che è una forma piuttosto frequente. Come anche un'altra dermatite molto frequente associata al rossore della nostra pelle, la dermatite seborroica, che in maniera caratteristica colpisce i lati del naso, dove la pelle appare arrossata e tende ad esquamarsi, l'attaccatura dei capelli e tra le sopracciglia. Ecco, la dermatite seborroica è frequentissima e si è visto che un particolare complesso attivo che si chiama aluchina, La sfiamma e la disinfetta anche. Esatto, perché elimina molto velocemente l'eccessiva desquamazione, si sfiamma, per cui la parte tende a schiarire, i vasi capillari diventano più forti e la dermatite seborroica riesce ad essere debellata molto facilmente. Quindi aluchina per la dermatite seborroica, che tra l'altro migliora molto al sole. Sì, la dermatite seborroica è una di quelle forme che tende a migliorare in questo caso sotto l'effetto dei raggi ultravioletti presi a corretti dosi, mentre invece può peggiorare se fa molto molto caldo. Quindi va rinfrescata la pelle ma va protetta, e quali sono le protezioni ideali per le persone che soffrono di dermatite seborroica e vogliono prendere solo il meglio dal sole? Le protezioni ideali anche qui dipende poi molto dal fototipo e quindi se la pelle è chiara o invece un po' più scura. Non scordiamo però che un fattore di protezione 50 nei primi giorni di esposizione al sole, dopo mesi che siamo rimasti in città, il nostro lavoro e quindi esposti poco alla luce, quasi obbligatorio, 50. Per poi passare a fattori più bassi. Ma come dicevamo prima, e io continuo a ripeterlo, non è solo la crema contro i raggi ultravioletti che ci deve difendere, ma anche spruzzare spesso, nebulizzare sulla nostra pelle dell'acqua, va benissimo anche l'acqua di rubinetto con un spruzzino da giardiniere. Sì, quelli con cui inumidiamo la biancheria anche per stirare. Se ne prende uno carino, colorato, piccolo, con gli Swarovski, insomma, qualcosa che possa essere piacevole anche con da mostrare. Swarovski. E ci si nebulizza quest'acqua, queste goccioline d'acqua, appoggiandosi, cadendo sulla nostra pelle, abbassano un po' la temperatura e questo è sufficiente. Allora, ci scrive un'ascoltatrice che per la dermatite lei usa dell'acqua borica per alleviare il rossore. Ci chiede, faccio bene o faccio male l'acqua borica, professor Di Pietro? Dunque, l'acqua borica è blandamente disinfettante, un po' lenitiva, ma tende un po' a seccare la cute. Quindi, in alcuni casi, se c'è tanta seborrea, la pelle è molto grassa, può essere utile. Esagerare però potrebbe portare a seccare ancora di più la cute, quindi non in tutti i casi funziona. La nostra ascoltatrice appartiene a quei casi fortunati, ma nella maggior parte purtroppo l'acqua borica è controindicata. È preferibile utilizzare dell'acqua termale che può andare benissimo, o acqua unita all'olio di lino, che riesce a riequilibrare il film idrolipidico in maniera estremamente delicata ed è un toccasana. Allora, un qua però ecco, vogliamo sapere le dosi, perché Deborah ce l'ha l'olio di lino. Non so come sia arrivata a casa mia, ma In una bottiglietta d'acqua, quelle, cosa sono? 300 ml, sì, quelle che normalmente si mettono, le bottigliette d'acqua minerale di plastica che si mettono nella borsetta. E allora, e lì mettiamo un cucchiaio di olio di lino. Va bene anche per i capelli? Mi sta facendo segno anche quello per i capelli? Può essere utile, questo può essere utile anche per i capelli, quando i capelli sono secchi, magari d'estate, dopo un bagno di mare, dopo una giornata di mare, che sono secchi, questo può essere utile da spruzzare un po' sui capelli e poi... E via, sempre più belle, professore. Allora, abbiamo Giancarlo dalla provincia di Rimini, Emanuela da Torino, che ho fatto aspettare, quindi pago pegno, gli manderemo sicuramente un libro. Giancarlo, Emanuela, scriveteci la domanda che gireremo al professor Di Pietro e riceverete anche un libro. Magari ce ne facciamo regalare uno dal professor Di Pietro, che ne scrive tanti e sempre molto interessanti. Professor Di Pietro, intanto grazie per essere stato con noi. Sempre un piacere. Grazie. A presto. A prestissimo. Buon sole. Buon sole. Buona partita. Cautela. La guarderà la partita lei oggi pomeriggio? Beh, purtroppo no. Però gliela racconteremo noi. Seguirò i risultati sul cellulare che lascerò acceso e mi arriveranno i messaggi. Quindi tra una visita e l'altra do una spirciatina. Bene. Grazie al professor Antonino Di Pietro. Grazie per il vostro ascolto. Passatevi un buon weekend. Esatto, così come lo auguriamo a Marco Lombardo, a Laura Vanossi, Paolo Corleoni questa mattina in assistenza tecnica. Noi torniamo puntualissimi lunedì. Buon weekend a tutti.